capisci che facciamo una trasmissione sull'infantilismo? O sembra piuttosto che hai la sintonia un po' malandata? Drago, rispondi alle mie domande. Stai parlando con me? Non sento. Ah? Credo asilo. Ma fa freddo, K, qua dentro. Fa che freddo. Succede? Se, i termosifoni sono gelati. Ma com'è possibile a novembre? Vabbè, ma in fuori. Tutte le scuole italiane mancano sì, i soldi per pagare il riscaldamento. Tutte sarà le scuole, anche bella roba, stiamo facendo stare i bambini al freddo. Evviva, chi se ne cosa frega. Cosa facciamo allora? Chiudiamo l'asilo? Beh, certo. E se chiudi l'asilo, i genitori fanno una rivolta. Se invece stai zitto, fai stare i bambini al freddo, magari la cosa si viene a sapere fra un po'. Ho capito, tipo a primavera. Ma per cui si rischiano raffreddori, malanni, peggio ancora. Vabbè, io guarda, di mio ho già la stanchezza cronica del lunedì. Anche con questo freddo ti viene una stanchezza cronica, non ho capito. Scusa, stanchezza mica dipende dalla temperatura. Vabbè, comunque sarebbe il caso di andare a parlare in direzione. Dobbiamo organizzare una protesta, uno sciopero. Ma il direttore non c'è mai, non so, non capisco. Infatti, andiamo anche. Direttore, vabbè, qui niente. Poi adesso sono stanco, facendo male. Ma capa, dai, dai, umiliante. Non sto neanche stare bene con i giacconi e le sciarpe dentro l'asilo. Non ti senti preso in giro da questi qui? Ma no, sono stanchissimo, bravo. Sai quando sei stanchissimo? Sono stanchissimo. Perché quando ho sonno non suona la campanella del pisolino, per esempio? E ora, bambini, ricreazione! Che freddo che fa, madonna! Sempre a lamentarti, bambino Alberto. Allora, dai, bando alle ciance che siamo qui per imparare l'inno nazionale italiano, Fratelli d'Italia. Ancora? Ci siamo, sei pronto? Sì, ancora, certo. Beh, insomma. Insomma, qui siamo messi così male in Italia che perfino Katia Ricciarelli si è dimenticata le parole dell'inno prima della partita di rugby. Quindi fai attenzione, bambino Alberto, che qui bisogna impararle per l'onore della patria. Allora, la volta scorsa hai imparato l'introduzione strumentale con K. Com'era? Fammela un po'. Dai. Più o meno. Vabbè, dai. Bravo, bravo, l'hai imparato. Allora, oggi dobbiamo imparare invece le parole. No, ma fa freddo, dai. Se fa freddo ci stringiamo a coorte. Eh? Sono le parole dell'inno. Stringiamoci a coorte. Coorte? Coorte, non corte. Coorte, due O. Aperte, credo. Ma che cos'è? Cosa vuol dire? No, tu non pensarci cosa vuol dire. Pensa solo a stringerti a coorte. E stringiti a coorte il tuo piumino. Vedo che c'è il piumino. Ma queste non sono le parole dell'inno, non sono quelle lì. Sì. Le parole sono Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'Elmo di Scipio, se cita la testa, anche, no? Anche, hai ragione. Però adesso impariamo la parte che dice stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Allora, ripeti con me. Stringiamoci a corte. Coorte, due O, coorte. Stringiamoci a corte. Sì. Ok, allora, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. Ma come siamo pronti alla morte? Cioè, che senso ha? Non distrarti, stai zitto, canta anche. Allora, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, zan zan zan. Ah, bisogna fare anche il zan zan zan. Beh, per forza, tutto devi fare. Allora, uffa. Dai, vai. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò zan zan zan. Zan zan zan. Ecco, allora rifacciamo, dai. Ma basta! Zitto, sai, questa è una lezione di educazione civica, non è solo di canto o di poesia. Io sono stanchissimo, vedi, di star qui con te, però sono qui al freddo di lunedì, una giornata bestiale, e quindi non farmi perdere tempo. Impariamo. Ma infatti, io per il freddo dicevo, no? Cioè, non è che possiamo tornare dentro? No. Quando fa freddo, un vero patriota si stringe a corte, capito? Sì, ma se io non so che cosa vuole dire. Ma non importa cosa vuol dire. Immagina, puoi. Come? Cosa vuol dire? Ma niente, niente. Allora, questo inno lo impariamo o facciamo solo finta? Riproviamo l'intro musicale, va, che qui bisogna anche... Ma no, ancora! Ma poi non me lo ricordo, ormai mi hai fatto concentrare su stringiamoci a corte! Male! Non è che si impara una parte per volta e poi ci si dimentica automaticamente quella che hai imparato prima, eh? Allora, ricominciamo da capo con l'intro che ti aveva insegnato K. Forza, dai! No, allora... Vabbè, ma... Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa papà. No, forse anche io. Dai, vai. So che a un certo punto fa. Fratelli. Però questa parte qui non l'abbiamo ancora imparata. Come no? Questa situazione dell'asilo al freddo è una vendetta dei comuni e delle province contro i tagli del governo. Vabbè, è sarà solo quel che quello. Sarà, Drago, però fa freddo, io sonno, la copertina, cosa pazzesca, devo andare a letto con la copertina. È che gli amministratori locali non si fermano nemmeno davanti alla salute dei bambini. Ma se non hanno soldi, Drago, l'unica è sperare che i genitori portino delle stufette elettriche. Sì, ma sai quanto consumano le stufette elettriche? La prossima bolletta sarebbe stratosferica, non la pagherebbero, con il risultato che l'asilo resterebbe anche al buio, oltre che al freddo. Vabbè, ma allora cosa ci resta da fare? Scusa, facciamo un falò qui in mezzo all'aula. Ecco, dai, un falò non costa niente, i bambini si divertono, imparano qualcosa. Il fatto è che i soldi ci sono ma non li usano, in modo da far cadere la colpa sui tagli del governo. Dice, i soldi li abbiamo. Maledetti. Se il governo rivede la sua politica, vedrai che miracolosamente i soldi per pagare la bolletta del gas ricompaiono. Ma non è giusto. Lo so, capo, il mondo va al contrario. Ma tra 25 giorni tutto questo sarà finito. I Maya hanno parlato chiaro. Qualcuno di noi che ha studiato certe materie come la medicina, come la fisica, come altre scienze relativamente esatte, hanno cominciato a dire c'è qualcosa che non convince, c'è qualcosa che vale la pena di essere esaminato. E allora è lì che comincia proprio l'indagine per capire cosa può esserci dall'altra parte, se c'è altro. Allora, i bambini del mese K sono senz'altro Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, due noti piloti di Formula 1 che sul podio di Abu Dhabi hanno usato un sacco di parolacce durante le interviste della premiazione. Raikkonen dice "We gave me shit", Vettel invece è contento che "We didn't fuck it up", eccetera, vabbè, eccetera. Ma tutto scusa, in diretta, sono un finlandese, un tedesco che non parlano inglese perfettamente. Quindi usano le parolacce anche un po' a casaccio, no? Perché quando parli la lingua straniera, a dire le parolacce non ti fa tanta impressione. No, è quello. Certo. Scusa. Vabbè, ma c'è una grande polemica, però, perché non siamo abituati a sentire certe espressioni in diretta televisiva. C'è stato uno, la Formula 1, che... da che mondo è mondo, non è uno sport da educando. Ma è proprio quello che ha risposto Vettel. Se non vi piace come parliamo, prendete il telecomando e sintonizzatevi sui Teletubbies. Ecco, quelli non dicono parolacce. Ha ragione. Beh, insomma, dai, bambini che seguono la Formula 1. No, ha ragione, anche se i Teletubbies. Cosa? E a volte anche loro. Cosa? Teletubbies. Teletubbies. Na na. Na. Teletubbies. Teletubbies. We love you. Mancano 25 giorni alla fine del mondo.